la calza effettivamente a massa con la calamita, e se dove? Nell'antenino del Maxcom, di cui quel portatile per le emergenze, lì avevi effettivamente la calza che era fissata a questa lamina di rame, e la lamina di rame era elettrosaldata sulla calamita. Ai Max non ci va bene anche. Marco, tu lo sapevi che vendevano anche le cuffiette, quelle che si mettono sotto, che di solito si rompono sempre? No, aspetta, vendevano le cuffiette, quelle che si rompono sempre? Quelle che si mettono sotto la base, quelle cuffiette in gomma che ci sono, per non graffiare la macchina, quelle le vendono, costano 4,90 euro, una cosa del genere. Allora, io ricordo un rivenditore che ce l'aveva, però non mi ricordo se era FLQ Elettronica, se era Radio Shop, se era Media Globe, non me lo ricordo più chi è, e le vendeva sia da 12 e sia da 14 o 15. Naturalmente, siccome di basi ce ne sono in tutte le marche, di tutte le forme, in qualche base può calzare bene, in qualche base può calzare più male, perché poi il bordino delle basi non è mai uguale, capito? Può essere più largo, meno largo, più spesso, meno spesso, però è buono che lo vendano. Una volta erano introvabili, anni fa, io le avevo cercate ma erano introvabili, e a periodi già. Sì, io, a me mi si è rotta, e praticamente come mi è caduta dalla macchina mi si è rotta e l'ho persa, quindi l'ho ricostruita pensando che non le vendessero, e l'ho fatta esattamente con quella pelle nera che si usa per asciugare la macchina, l'ho ritagliata tutta bene attorno, le ho incollata e non esce manco per le palle, perché l'ho provata nella macchina, l'ho messo di colla con la Vinavil, ci mette molto a asciugare, però quando asciuga non esce più. E poi ne ho fatto tutto il bordino fatto col nastro vulcanizzante scaldato, e ne ho fatto tutto il bordo bene, ma la cerca è uscita bene. Ci vuole un po' di pazienza, perché io anch'io ci ho pensato, ho detto, ma se io dovessi sostituire la gomma, per esempio della, vabbè, la base Midland ormai è andata, però mi si era un po' incisa la gomma, e ho detto, ma se dovessi sostituire questa gomma con metodi casalinghi, come posso fare? Perché la camera d'aria delle bici non va bene, è troppo spessa. Ho detto, serve una membrana, proprio una membrana super sottile ed elastica, come quella originale. E però non sono riuscito a casa a trovare materiale adatto, perché proprio è sottilissima, a meno che uno non ci metta un profilattico, ma no, non è adatto, perché poi si romperebbe. Marco, comunque come l'ho fatta io va benissimo, perché l'ho provato. Sì, comunque Natalino aveva ragione, allora era meglio grattare la vernice lì dove innesti l'antenna, perché c'è una rondella, no, quella messa con i tagli in diagonale, e dovrebbe essere effettiva la massa per migliorare ancora di più la massa, diciamo, come, vabbè, già capito. E Natalino l'aveva fatto con la sua, vabbè, nelle mie è diverso perché hanno l'attacco PL, quindi è già a massa, non devi fare altro. A Boggia mia, ogni arrostita, ciucciù, guarda, pancetta, salsiccione, si tratta bene Luca, Maricu. Ah? Sì, Luca Maricu. No, Luca Filippa sta facendo grigliata su quel bellissimo terrazzo che c'è lui, che almeno è in alto e non disturba nessuno, tanto il fumo va in alto, lui è all'ultimo piano. E il vino pure, anche il vino. E io, naturalmente sempre roba un po' grassa, sarà pancetta, però è di un buono. D'altronde, esco, uno qualche vizio deve averlo, se uno non beve, non fuma, non tromba al momento, e almeno mangiare, parlo per me, se ti togli anche il piacere del cibo. Infatti, roba da chiudi, bobo. Natalia, ho visto abbassarsi il segnale per un istante e poi risalire, attento a non avere falsi contatti. Sarà dal microfono, sarà sicuramente. È un po' difettoso questo microfono. No, mi sembrava il tuo segnale proprio caduto, crollato di... e poi per un istante poi risalito. Ah, lo sai che? Lo sai che cosa? Allora, qua, quando ho fatto il giunto, mi servivano 2 PL per il 213 e io non ne avevo per il 213 bacchelite, non ne avevo, e siccome volevo farlo in fretta ho preso 2 PL da Fusaro, però è bastato trattarli con delicatezza senza spingere il bianco, come si chiama l'isolatore lì, senza, perché se abiti troppo tende a uscire, poi non devi sollecitare troppo il pirulino centrale, se no si stacca, capito? Si stacca proprio. Insomma, l'ho saldato piano piano, bene, e funziona, però ho dovuto usare quegli spinotti lì, è vero che funziona comunque. Diciamo che se lo scaldi troppo dà problemi, capito? Se scaldi troppo il centrale va problemi, se avviti troppo esce quel coso bianco, no? Che poi non è nemmeno teflon, è proprio plasticaccia. E infatti, è plasticaccia sì. Perché io avevo fatto la fesseria di ordinare qualche PL in bacchelite per il 58, ma non per il 213, vedi? È stata una leggerezza mia. Io ho capito. E poi mi aveva detto Marzia, così si chiama, mi aveva detto che loro avevano ordinato questi PL in pseudo bacchelite, cioè, e poi si è scoperto che non era bacchelite ma era plasticaccia del colore della bacchelite. Anche loro, finché non li ordinano, non scoprono le magagne, capito? Noi ce la prendiamo con loro, però anche loro, diciamo, sono rimasti fregati. Prendiamola per buona. No, già è così, non ti preoccupare. Anche loro prendono delle fregature, là, diciamo. Sì, dice, era color bacchelite, tipo quel marroncino, però poi si vedeva che era plastica, perché se lo scaldavi troppo si scioglieva questa cosa, quindi figurati. Comunque Media Globe ce li aveva in bacchelite vera, ed erano anche discreti, buoni, niente di che. Speriamo che li tenga anche un po', così mi ordino anche quelli grandi. Ma se li vuoi due te li dommi. No, vabbè, per adesso sono a posto, poi quando farò il giunto definitivo qua, che lo vulcanizzerò, metterò forse quelle in bacchelite, ma se necessario. Poi prima di vulcanizzarlo deve essere completamente asciutto, non ci deve essere umidità, non deve essere ossidato il barilotto, perché quello poi dà rogne, e già me la vedo io. Gianni, riprendi. Vabbè, queste bacchette è un po' di tempo che non si vedono qua. Io ne avevo qualcuno conservato e sto sempre recuperando quelli che ci avevano negli spezzoni, perché non ne trovo più. Sì, qua no, da Media Globe ti devi ordinare. Certo, uno non si ordina poche PL perché gli costa più la spedizione. Al limite se uno deve prendere, che so, un accessorio, un commutatore d'antenna, qualcosina, insomma, almeno per ammortizzare la spedizione, capito? Buongiorno. Buongiorno a lei, signore. Ciao Gianni, ti sei dimenticato il mio nome. Ciao Marco, era un po' di tempo che non ti sentivo. Ciao Natalino, riprendi. Ciao Giulio, ben sentito. No, non me lo so dimenticato, c'è stato un lapsus, se non riuscivo a far uscire il fuoco. Ok, ma c'era la portante, c'era. Ciao Giulio, sì, importante, ancora, dai, ma dai, c'erano 4 gatti. Ehi, ora vuoi fare, fregate, tanto non ce ne frega più di tanto, riprendi Marco. Sì, si parlava di carne da pesca, di antenne, di basi magnetiche, di grigliate, di grigliate, non mie, è Luca Flipper che sta organizzando. Luca Flipper ogni tanto mi manda qualche video di grigliate, appunto, che poi a me cosa vuoi che me ne freghi della sua grigliata. Comunque, lasciamolo fare, ogni tanto io i messaggi poi già li cancello, non c'è problema. C'era di nuovo la portante. Io ho entrato a modulare tutti, meglio modulare che portantare, tanto è una paranoia anche mettere la portante, è troppo impegnativo più di parlare. No, è mancante rispetto per chi ascolta. Poi appena entra Giulio è una cosa allucinante. Io vi dico una cosa. Ma cosa gli hai fatto al portantista? Se continua, io chiudo la frequenza, ve lo giuro, chiudo la frequenza. Niente, niente, inesorabile, vabbè. Ma cosa gli hai fatto al portantista? Luci, la mamma nella cavata, quella su Canada. Oia, oia, oia. Gianni, riprendi che vado un attimo, che c'ho una narice fuori uso. Devo usare Renatina perché, mamma mia, è deleterio. Proprio mi si chiude alla sinistra. E questi sono i postumi dell'operazione del 2018. Come hanno aggiunto un po' di materiale per tappare, hanno fatto più spessore ed è una seccatura. E torno dopo, ciao. Figlia, dai, ci siamo qua. Gianni. Figlia. Se continuo la portante ti giuro che chiudo la frequenza, questo te lo giuro. Ehi, ma lascia perdere, tanto più si dà retta, giù ce lo sai. Ma c'è un bastardo, il bastardo, cosa ci posso fare? Ti giuro che chiudo la frequenza, non ci parlerà mai più nessuno, tu lo sai, io ho tanto tempo a disposizione e ti chiudo la frequenza. Guardate che cosa c'è, però, scusa. Appunto, siccome gli altri non gliene frega niente, perché gli altri allora non danno una mano, e dicono a quell'imbecille di non mettere la portante, invece considerato che chi ascolta siete voi, non io che parlo. Ma qua passi Giulio. Anche qua passa Giulio. Io non lo so che gusto ci provano, stavamo così bene poco fa facendo discorsi costruttivi, deve essere che non gli interessa questa persona qua. Ho detto che chiudo la frequenza, se continuo la portante non parlerà mai più nessuno, perché chiudo definitivamente la frequenza. E quello invece anziché fischiare così, perché non può fischiare metà le gambe della madre come faceva prima. E poi ti porterà a parlare male e debito fregarsene giù, dove fa che serve una mano, dai. Ma se questo è un bastardo, questo qui è cuore matto, ma se qui che non so che è cuore matto, questo è delinquente. Natali, riprendi. E cosa riprendi? Là, me ne vado a fare qualcosa in cucina. Vi saluto, dai, grazie per le cucine, non mi piace. Natali, stai uscendo a tratti, cioè proprio sparisce la portante. Controlla il PTT o il cavetto. A me stavi dicendo che sì, proprio ti sparisce la portante o il PTT o il cavetto, non so, controlla un po', poi quello è vintage, quindi vabbè. Comunque Marco, le basi magnetiche, al contrario di quello che io pensavo, vanno bene, perché la massa la fa lo stesso bene. Io sono stato contento anche della Turbo 2001, come andava anche fuori eccetera eccetera, la massa la faceva bene. L'unica cosa che c'è è che è partita già due volte, la seconda volta è da poco e mi ha ammaccato anche un po' la macchina, aveva ammaccaturine piccole, però mi ha fatto due ammaccaturine piccole e praticamente ho deciso di non metterla più quella lì sulla macchina, perché è un pericolo anche per le macchine che ci sono dietro e tutto quanto, posso fare danno. L'ho tolta e direttamente metto quella là che è piccola e va molto bene. Sì, ma c'è pensa se dovesse caderti la base dal tetto, no? Finisce di lato e sulla ruota di dietro va a finire la base magnetica e il cavo, lì come la ruota tira rischia di o spaccare il vetro se passa attraverso il finestrino il cavo, o se come me passa dalla portiera rischia anche di tirare in fuori l'angolo della portiera, è un casino, è di una pericolosità se cade la base magnetica, non sembra, ma già è così. È caduto, ha fatto tutta la strisciata sul tettuccio e in più dietro, vabbè, la strisciata l'ho eliminata perché meno male che era un po' sporca la macchina e diciamo la polvere l'ha un po' salvata. L'ho passato la pasta abrasiva, è uscito tutto. Però quelle due marcaturine sono rimaste, capite? Vigila le scatole perché la macchina è nuova. Infatti quello è la macchina è nuova. Guarda, io, vabbè, quella mia è vecchia, però quando portavo quell'antenna impegnativa, io una volta sono andato con quell'antenna multibanda, no? Che è rigida, parecchio rigida e pesante, però andavo a 50, anche se andavo a 8 ore su Platano, andavo a 50 orari con quell'antenna, perché se no se ne vola tutto. Sai qual era anche molto ma molto delicata nel guidare, cioè devi stare attento a non fartela staccare. Allora è quell'antenna 3x5 ottavi per la UHF, è un'antenna bibanda, la SG7009 della Diamond, che la mia è una coppia economica per poveri, la SG7009 era 1,58 m, ma era grossa, grossa come quelle antenne bibanda veicolari, quelle che hanno le tre bobine distribuite lungo la lunghezza. E lì proprio dovevi andare piano, non più di 50, perché se acceleri ti si stacca quella, a parte che ti si distrugge l'antenna, rischi di far danno al vetro, alla portiera, come ti ho detto prima. E via, va bene, ti sei rimasto, Natalina è andato a cucinare, Giulio, va bene, non fanno modulare. Vediamo un po' se lo fanno modulare. Giulio, tu sei al minimo, metti a manetta, quella bella radio c'è anche abbastanza watt, metti tutto a manetta. No, sto usando l'HB23, per cui io non cosa metto a manetta, quello è quello normale, l'HB23, per cui vintage. Ah, ho capito, vabbè, no, credevo fosse quello bellino, quello che ho, come quello che ho io. No, sto usando sempre l'HB23, va bene così, io non è un problema. No, comunque giuro, se continua la portante chiudo la frequenza completamente, mi dovete scusare, però come fa lui farò io, questo è scontato, così almeno avete considerato che a voi poco vi interessa il fatto che ci sia la portante e non vi lamentate solo quando entro io, e allora farò io anch'io la stessa cosa. Ci siamo arresi per la portante, arresi proprio. Appunto, e io vedrai che, ti giuro, mi comprerò un lineare bello, sono robusto, tanto i soldi già ce li ho io, non ne ho problemi, per cui il discorso non cambia. Quando... E poi vado in giro e mi metto sotto casa di tutti quanti, così a turno, così almeno chiudo definitivamente la frequenza e poi qualcuno si lamenti. Però se la persona non la capisce che ormai siamo quattro gatti e che dobbiamo riuscire a convivere tutti in 27, se non l'ho capito ora non so più che dire, sono anch'io, non so più cosa dire, ma non la capisce o non la vuole capire o non la può capire, già capisce, sta tranquillo che già capisce, solo che è un grande bastardo, vedi che è un vigliacco, perché prima ti fa la bella vista, ti fa quando ci parli, poi magari sotto sotto fa l'imbecille, però non si presenta mai di persona perché è uno stronzo e ha paura, non presentati di persona e poi vedremo se è come dici tu. E adesso portate, non ce n'è. Lo so, intanto lo so, è cuore amato è che smette la portante. Il Lombonga ha oggi a sole, Lombonga la città, a lui e a tutta la sua generazione, quel mazzardo. Insomma, vai bene, dai, vai bene. Via già. Sì, già, l'avevi capito quello di prima della... che le, il cavo della, dell'antenna mobile va alla campana di alluminio, no? Alla base. Però la base stessa è isolata dalla calamita tramite resina, cioè incollata con la resina, ma alla calamita non c'è massa effettiva, si è notato. Infatti non ho capito come funzioni, cioè come fa a fare massa sulla carrozzeria anche se in modo, come si dice, induttivo, non mi viene il termine. Se la calamita stessa è isolata dal resto, dalla calza e dal resto del corpo, come funziona? Non ho capito ancora. Magari Giulio te lo sa spiegare, che lui ha fatto l'antennista e magari questi equipi li conosce. No, ma io sono sempre per l'antenna fissa nella macchina, a me la cosa, la base magnetica non è che mi va molto al genio, sì, funziona lo stesso, però la soluzione migliore per me è la base fissa, come ce l'avevi tu una volta nella tua macchina che avevi già lì. Però giù, bucare la capota di una macchina nuova ti dura il cuore, capito? Quello è il problema. E metterla dietro è brutta, perché io l'antenna della radio ce l'ho dietro, capito? Lo so, già, però è la soluzione, se vuoi avere un impianto come si deve fare come avevi tu prima, con quello il sistema migliore. La base magnetica intanto è una cosa scomoda, perché la devi togliere, perché no, si sa benissimo che prima o poi ci trovate fissa, te la fregano. Sì, quello sì. E vabbè, ma non è che ci metto molto, abbasso il finestrino, tolgo fuori la base magnetica, arriva tutto il finestrino, metto l'antenna e la riattacco alla capota. Sono poche cose da fare, dai. E rendeva bene quella che ci avevo, però vedi, si stacca, è pericolosa, non è affidabile. Ma non correndo giù, io ti dico, non stavo correndo, se sono stato a 70-80 era troppo. E mi si è staccata, lo stesso, capito? E o non attacca bene quando c'è la polvere, ho provato a mettergli l'acqua, a pulirla la macchina prima di metterla, per non graffiarla anche. Niente da fare. Non è che va bene già, dai, no? Sì, finché sei fermo va bene, ma quando cammini, se raggiungi una certa velocità, poi anche le scuole è pericolosa, no, assolutamente. Io la base magnetica non mi va, ecco. Io dico che l'unica cosa è, ti sacrifichi la macchina, fai un fogliolino, ci metti l'antenna, tanto poi lo stigo lo togli e non è nemmeno così brutta da vedere. Infatti, no, ma se l'antenna è corta come questa che sto acquistando, che sicuramente arriverà in giù, che ho acquistato, vabbè, mi hanno fatto un favore, me l'hanno ordinata, dovrebbe arrivare domani, penso, lunedì. Cosa avete mai acquistato? La Fiat 1800 non la vendono più. La Fiat 1800. Quella era una bella antenna, io ce l'avevo, l'avevo regalata, l'avevo, tanto non me ne facevo niente, per cui, ma comunque era sempre una bella antenna. Sì, perché era della Sigma la PLC, vero? La Sigma è la stessa che faceva le Mantova, no? Sì, e anche la Sigma DX era buona, quella di vetroresina era ben buona. La PLC 800, anche la 1000, un po' più lunga, però la PLC 800 è quella che ho sempre utilizzato, sì, ho utilizzato anche la Prosanera, però non c'è la paragone, la PLC 800 è un'altra quella. E la PLC 800 ci siamo messi io e Natalino vicini con le macchine e arrivavo allo stesso segnale che io arrivavo con la Turbo 2001 e abbiamo fatto la prova dal quadrato. E appunto te lo sto dicendo, la PLC 800 non l'avevo voluto, l'antenna è sempre stata così, poi era tutta in acciaio, sottile e andava benissimo. Dai Marco. Avete notato che, cioè, i marchi italiani che c'erano una volta tutti hanno chiuso, vabbè, la Sirio sopravvive, però allora lei contenne ha chiuso, la Sirtel credo che lo stesso non esista più, e poi quell'altra, aspetta, la Sigma, vabbè, ovviamente la Sigma, quella che faceva le mantova. Rimane la Sirio come ditta italiana, che poi la roba, detto tra noi, molta roba è fatta in Cina e poi marcata Sirio, non è che facciano tutto lì. E la LEM rimane ancora, riesce a sopravvivere, K. Sì, e beh certo che sì. No, la P800 a me mi è sempre piaciuta la vita, devo dire che era anche abbastanza cara. E non è che era, costava poco. Costava intorno alle 70 euro, l'avevo regalata a Stefano, l'avevo regalata a Gianni. Non ho capito. Non hai capito? No, c'è la portante. Ah, ho detto, l'ho regalata a Stefano, la P800, era una bella antenna, costava intorno alle 70 euro. Sì, sì, ma non ne fanno più, le vendeva a Grassi, le ultime le ha vendute Grassi, però non le ha più ordinate. Ce ne aveva Grassi, le P800. Io non ricordo il nome di un rivenditore, mi dovete aiutare, la curiosità mia. Comunque era una bella antenna, a me è sempre piaciuta. Vai Marco. Allora, mi dovete ricordare il nome di un rivenditore, che però non so se lo conosciate. E come fare? Allora, parlo di metà anni 80, metà anni 80, tipo l'85. Allora, voi siete in via Carofelice, ci sono i vigili urbani a sinistra. Voi andate avanti e arrivate a quella rotatoria, prima di arrivare da Tonino, dalla GBC, Tonino della GBC, no? C'è quella via che va a destra, no? Alla rotatoria, e lì c'era, non so se fosse un CB o comunque una specie di rivenditore, non so se improvvisato o meno, di roba elettronica, vendeva anche le PLC 800, l'aveva venduta a Walzer, l'aveva venduta a un sacco di CB a un prezzo anche vantaggioso all'epoca, e non mi ricordo questo tipo come si chiamava. E mia, ma Carborazzi stai dicendo? Sì, praticamente sì, in via Carofelice, sì, a quella rotatoria, che all'epoca non c'era la rotatoria, quella via a destra che poi va dritta verso Carbonazzi, cioè tu vai a destra, fa una specie di curva a sinistra e poi vai dritta e arrivi a Carbonazzi. Lì c'era una specie di, chiamiamolo negozietto, era più un magazzinetto, dove lui aveva antenne, altra roba elettronica, forse anche baracchini. Chi cavolo era? Guarda, ci lavorava anche il fratello di un amico mio, però non mi ricordo come si chiamava. Una volta me l'ha indicato la GBC, perché io non lo conoscevo nemmeno, mi ha detto la prova lì che magari ce l'hanno, e sono andato e avevo trovato quello che cercavo, non mi ricordo cos'era, si vedeva cavi, tutte queste cose qua. Sì, perché io la PLC 800 l'avevo presa da questo, e dice, mi hanno mandato lì, dice guarda ti mando io, di che ti faccia il prezzo che hanno fatto a me. E questa PLC 800 l'avevo montata sulla, con una staffetta a grondaia sulla 500 vecchia di nonno, tu vedevi la 500 piccola piccola, e poi quest'antennone che era, non era da 2 metri però, mi pare fosse tipo 1,80 o 1,60, non mi ricordo, perché quella 2 metri era la PLC 1000, questa invece era l'800, era un po' più corta, e comunque era, cioè, per quella macchina era un antennone. Vai Giulio. Ok. No, io non me lo ricordo, ma forse l'avevo comprata, ma non è proprio lì, da quello che c'era mia principessa Maria una volta. No, no, forse l'avevo comprata lì, adesso non mi ricordo, ma mi sembra che io queste cose le chiedevo tutte da fuori, perché intanto qui a Sassari non era il caso di andare a comprare qua. Le prendi già. Ehi, ehi. Vabbè, comunque magari se si trova, si trova qualche avanzo di magazzino, perché in vendita non ce ne sono più, però magari qualcuno come avanzo di magazzino può averla. Sì, è possibile. Comunque va, mi sembra così, sembra che la faccia la cosa, quando la cosa funziona bene dai lì. Però dal commercio, non so per quale motivo. Poi ai nostri tempi c'era anche la Colibri che andava molto bene, la Sigma DX che ho avuto io. Quella era la prima, proprio l'abbiamo avuta un po' tutti, la Colibri, quella sì. Marco, tu l'hai conosciuta la Colibri? La Colibri non mi ricordo chi la faceva, giusto? Non ricordi tu che ditta la faceva? No, non me lo ricordo già. No, non me lo ricordo, solo assolutamente, forse la Intel, non lo so. Andava bene con l'antenna, era piccola e andava bene. C'aveva la molla che partiva là e poi finiva a punta. E non aveva antenna, diciamo, di dimensioni non molto grandi, e andava bene lo stesso. Sì, aspetta, la usavo io nella Vespetta, avevo fatto nel parafango della Vespetta 50, avevo messo quella e parlavo con Vidano con un telefono, cosa che oggi non ci si riesce a parlare, ma nemmeno la stazione fissa. Pure tu. No, perché stavano dicendo, anche Gianni l'aveva fatto, anch'io, di mettere le baracchine in moto, naturalmente da usare da fermo. E funzionava discretamente bene. Io l'antenna e ho parlato dal quadrato, mi sono fermato e ho parlato. No, io dalla bottega così, sul marciapiede, la aspetta, l'avevo messa e parlavo come la roba con telefono con la curibrina, sono un po'. Attaccaci di sigari che ce l'aveva sotto la sella, il buco, ve ne aveva due attaccaci di sigari e avevo attaccato il baracchino. Dietro dove c'è il bauletto, avevo tolto il bauletto e ci rimane il ferro, allora nel ferro avevo messo la base magnetica e andava benissimo. Posso? Già, prima avevamo parlato in due. Praticamente Giulio, anche Giulio l'ha fatto, e io pure. Praticamente io negli anni fine 80, inizio 90, sulla Kawasaki Z250, due cilindri, avevo messo sul maniglione cromato di dietro l'attacco a grondina, che ha quelle due viti, no, che bloccano, e avevo messo la frusta nera da un metro. Avevo fissato il baracchino con una saffetta così improvvisata, un baracchinetto piccolo, e anch'io da Piazza Leseni l'avevo provata naturalmente da fermo, e funzionava bene, riceveva discretamente. Mi pare che uno avesse... me ne sono ricordato adesso, un ragazzino passando, vedendo l'antenna, il baracchino su una ruota, ha detto, vabbè, Ponciarello! Ehi, vabbè, bei tempi, io mi ricordo, ci radunavamo tutti al quadrato a giocare a pallone, ci divertivamo. Insomma funzionava, anche perché adesso io non so Giulio che batteria avesse sulla Vespa, però per quella moto mia, sia la Kawasaki sia la Honda, la batteria era da 12 volt. Io ho avuto la Z250 e poi la Honda 404, che era più vecchia, era gli anni 70. Vai Giulio. No, io l'alimentavo direttamente elettrico da falegnameria, perché la Vespa era sul marciapiede davanti alla porta di falegnameria, e attaccavo l'alimentatore con la prolunga e lo facevo funzionare con l'elettricità o Marco. Ah, però eri legato, diciamo, all'elettricità della bottega. Vabbè, noi alla... Gianni non so, Gianni che moto avevi all'epoca, che non ho sentito bene. Però la batteria era da 12, sì. Sì, il Murgo è 400 della Suzuki. E avevo praticamente tutto il bauletto, e tutto il supporto del bauletto l'ho usato. Ehi, scusa che mi sono seduto, ho premuto il microfono senza volerlo. Quindi il Burgoman, quindi è in tempi anche più recenti, io ti stavo parlando del 90. E ti ho detto, come mi ha detto, e beh, Ponciarello, tipo i chips, no, che avevano l'antenna e la radio. Ti dico, il Ponciarello e quell'altro biondo lì, e vabbè, i chips, già hai capito, i poliziotti in moto. Sì, ho capito. Comunque... mi sono fermato, naturalmente non guidato, mi sono fermato al quadrato e non mi ricordo che avevo chiamato ed era venuto, capito? E poi una volta quando le macchine avevano l'attacco, avevano la grondina, no, a lato, c'erano questi attacchi a grondina di vario tipo. Uno era con la ventosa, cioè avevi la parte che si fissa la grondina, e poi sulla capota c'era questa ventosa che si fissava, però non mi piacevano tanto, preferivo quell'attacco a grondina, quello senza ventosa, che aveva quelle due viti Allen che chiudevi e si serrava bene, e da lì non si muoveva, era l'attacco migliore. Ma qua c'è Titanic, si sente? Si sente un canto lontano. Renata sta cantando, la mia compagna. devi fare così, andate in punta a un traghetto, mettete con le braccia allargate e la fai volare, come nel film. Minchia, che bello quel film però, eh. L'hanno ridato, quando era, qualche mesetto fa. Bello, per l'epoca era un colossal, lo sai che all'Ariston era rimasto mesi e mesi e mesi il film, se sai cosa vuol dire mesi, sempre lo stesso film. Ma durava un becca, cioè durava un medio ore, non lo ricordo, sì, era molto bello come film, poi ti prendeva. Per esempio mamma mi ha detto che le sue alunne delle medie andavano più volte a vedere il film e ogni volta più niente, perché moriva lui, no? Il Bonazzo di turno. Ed era, DiCaprio era giovane lì, era molto giovane. E poi sbarbavano tutte le donne per lui. Sì, sì, sì, sì. E ogni volta che andavano a rivedere il film al cinema, di nuovo più niente, no? Quando lui moriva congelato alla fine. Adesso questo Avatar dice che ha fatto un sacco di incassi, so che è tutto computer grafica, oh, spettacolare, spettacolare, però è tutto computer grafica, capito? Cavolo, ma allora vanno un quarto, io vi devo lasciare, dai, che devo mettere a cucinare, sto facendo un po' di pasta con i frutti di mare, che deve venire gente. Secondo Giovanni è già preparato e devo fare la pasta. Dai. Ci sentiamo, grazie per il consiglio. Ciao Giulio, ciao Marco, ciao Natalino. Fammi passare la Natalino che magari deve ancora parlare. Ok, dai, anch'io chiudo, ci sentiamo, ciao Gianni, alle prossime, ciao Marco, anch'io chiudo, dai, siamo vicini all'ora del pranzo, per cui chiudo, ciao Natalice, si è all'ascolto, ci sentiamo, riprende pure Marco. Ciao Gianni, Gianni è appassionato di frutti di mare, pizza e frutti di mare, sempre frutti di mare, da quando lo conosco, e gli piace molto. Va bene Gianni, buon pranzo, buona cucinata. Qua in realtà noi abbiamo fatto colazione un po' tardi e quindi pranzeremo alle 2:30, dai, perché fame ancora non ce n'è. Ok, Giulio lo stesso, comunque passi di radio è Giulio, quindi ti copio lo stesso. Buon pranzo anche a te, ok, poi ci sentiremo quando vuoi, chiama, eccetera. Natalino lo stesso, se sta cucinando ma ascoltando, un saluto e buon pranzo a tutti, dai, ci sentiamo. Ciao Marco, ti faccio salutare dalla cantante. Ciao. No! Brutto! Ciao! Ciao, ben sentita, ho sentito il canto soave da lontano, sì, si sentiva, dai, buon pranzo anche a voi, ciao, buona giornata. Ciao, dimmi che canzone era Marco. È il Titanic, giusto? In spagnolo però la stava cantando. Ah, che poi quella canzone era di Céline Dion, vero? Della canadese Céline Dion. Sì, c'è anche in italiano, c'è in spagnolo, c'è in portoghese. C'è portoghese, italiano, spagnolo. Loro stavano cantando in spagnolo. Ho dovuto studiare un po' però prima. Ma ha buttato tutto il palazzo cantando. Ma io non lo posso permettere anche. Ciao, ciao, Marco, modesto. Ciao, ciao a tutti, dai, gente allegra, Dio l'aiuta, ciao, buon pranzo a tutti, ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao. Anche a Luca Flipper che non ho salutato, che sicuramente si starà ingozzando di quella buonissima pancetta, il salsiccione che di cui mi ha mandato solo la foto. Ma la foto non basta, mi devi mandare una porzione. Ciao Luca, ciao.